We'll go on getting back, cause I'm getting back, cause I'm getting back, cause I'm getting back. It's coming, football's coming home, it's coming. So sure that England's gonna throw it away, gonna blow it away, but I know they can play, cause I remember three lads on a shirt, Jules Rimet still gleaming, 30 years of hurt, never stop. Ciao a tutti, benvenuti al podcast di Football Coming Home, titolo preso da questa famosa canzone di un gruppo inglese che era stata fatta per celebrare o per auspicare all'Inghilterra la speranza di poter vincere i mondiali di Francia del 98, poi riutilizzata 20 anni dopo per seguire l'Inghilterra. Nei mondiali di Russia però è andata non bene, visto che comunque l'Inghilterra è arrivata in semifinale ed è arrivata quarta in questa Coppa del Mondo. Come avete potuto capire, parleremo di calcio, l'argomento più utilizzato al mondo, probabilmente più della politica, più del sesso, se escludiamo ovviamente il continente nordamericano che prevede altri sport. E oggi, come prima storia, come nostro esordio di questo programma, parleremo di due realtà, ovvero la Serie A e la Premier League. Non ne parleremo in maniera, diciamo, classica, eccetera, eccetera, però racconteremo come questi due poli nel corso degli anni si sono invertiti l'uno con l'altro, come la Serie A dall'essere il trono del calcio europeo e mondiale. Qualcuno scrisse un libro sulla Serie A degli anni 80, primi anni 90, quando eravamo re, perché eravamo re, eravamo il punto di riferimento, come ci siamo ritrovati a essere l'ombelico del mondo del calcio, a diventare periferia del mondo del calcio. E l'Inghilterra l'inverso, come l'Inghilterra è passata dall'essere una nazione che non aveva un grosso seguito a livello internazionale del loro campionato, a oggi essere uno dei campionati più seguiti. Qualcuno l'ha chiamato anche l'NBA del calcio, perché diciamo, è seguita in maniera globale più delle coppe europee quasi. Se andiamo a vedere lo share che fa in Asia, il calcio inglese fa più share una partita di Premier League che una di Champions League, e questo fa capire quanto la Premier League sia non seguita, seguitissima. Parleremo proprio di questo, parleremo appunto di questa storia che secondo me parte un giorno molto triste, e parleremo di come ci si è evoluto e come noi siamo finiti veramente in basso, in basso, in basso. Try this trip and spin it. Yeah. You have a collapse, but there's nothing in it. And you're il momento di non ritorno, il momento in cui il calcio inglese tocca il fondo e praticamente non difficilmente sembra che possa risalire il 1985, la finale dell'ASL, Juve-Liverpool, finale di Coppa dei Campioni, scontri tra gli hooligans del Liverpool e quelli della Juventus, muoiono 39 tifosi della Juve, crolla un settore di quello stadio. E il giorno dopo quella finale giocata, nonostante i morti, la UEFA decide di sospendere per 5 anni le squadre inglesi dalle competizioni europee. È un brutto pugno in faccia che riceve il calcio inglese, è il momento probabilmente più basso della sua storia. Però in quel momento il calcio inglese inizia la sua risalita. Ci saranno anche altre tragedie in Inghilterra, perché comunque negli anni 80 gli stadi inglesi non erano dei bei posti dove stare, erano stadi decrepiti, vecchi, in alcuni casi c'erano gli spalti in legno e soprattutto c'erano gli hooligans, e gli hooligans regnavano e si scontravano tra di loro dentro e fuori dallo stadio, ma anche nella vita normale. Per cui l'allora primo ministro inglese, ovvero Margaret Thatcher, denominata Lady di Ferro, decide di inasprire le pene. Impone alle squadre di club di sistemare gli stadi, di mettere più sicurezza, di mettere la videosorveglianza, di mettere delle celle all'interno dello stadio. E lì il calcio inglese inizia a investire sulle strutture e non sui cartellini dei giocatori. Che poteva sembrare una cosa assurda per chi faceva calcio all'epoca. Anche perché comunque da noi in Italia c'era comunque la violenza negli stadi, non è che era una cosa prettamente inglese. Detto questo, in Inghilterra nel giro di pochi anni decidono di cambiare la prima divisione inglese, chiamarla Premier League. I club si uniscono insieme, i club sistemano gli stadi, i club iniziano a vendere i primi diritti televisivi non solo in Inghilterra ma in giro per l'Asia. Sono i primi ad arrivare negli anni 90 in Asia. Oggi in Asia il calcio inglese è quello più seguito e la Premier League ha una miriade di introiti, di soldi derivanti dal merchandising dall'Asia, perché sono ormai più di 20 anni che gli inglesi hanno messo per prima la Play TV e per seconda cosa l'hanno esportata in giro per il mondo, esportando il marchio della Premier League. Così la Premier League nel 95 nasce con una delle partite più storiche, 4-3 tra Liverpool e Newcastle. È un calcio molto meno tattico, un calcio dove ci sono, tra virgolette, da noi in Italia dicono ci sono le praterie, in Inghilterra per fare le scorribande. Ci sono tanti gol, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti gol. E i giocatori, le star che erano tutte in Italia, alla fine decidono che forse l'Inghilterra è un bel posto dove andare a giocare a calcio. E soprattutto gli stadi sono a prova di famiglia. Ci sono i bambini, ci sono le famiglie che vanno, il fenomeno degli hooligans viene praticamente quasi annullato, anche se ancora oggi c'è qualche fronda di hooligans, però diciamo che le leggi che hanno in Inghilterra sostanzialmente portano a non poter avere più quel potere che avevano negli anni Ottanta. Ecco. Nothing is no. Woo-hoo! problem. It's not my problem. Il momento nero del calcio italiano è lo scandalo scommesse del 1980. Fino ad allora l'idea del calcio in Italia era l'idea di un calcio in cui si ci scontrava in maniera leale, sportiva, eccetera, eccetera. Tutto questo viene a cadere, questa sacralità del calcio italiano viene a cadere quando le camionette della polizia e le gazzelle dei carabinieri entrano negli stadi per arrestare i giocatori, i dirigenti e presidenti. Ed è uno shock per l'opinione pubblica, per gli appassionati sportivi che si disinnamorano del calcio. Cioè il decennio che segnerà il calcio italiano sostanzialmente inizia nel peggior modo possibile, toccando il fondo. E tra le persone arrestate ci sono personaggi illustri come il presidente del Milan Felice Colombo, il presidente del decimo scudetto del Milan, come gente come Albertosi, gente come Paolo Rossi, che dall'80 all'82 è soltanto Paolo Rossi quello del calcio scommesse. Dopodiché arriva qualcosa, succede qualcosa. L'Italia, in maniera incredibile, in maniera impensabile, vince battendo tutte le squadre più forti dell'epoca il mondiale dell'82, un mondiale iniziato malissimo, nel peggior modo possibile, tra mille polemiche, eccetera, eccetera. E il protagonista di quel mondiale è proprio Paolo Rossi, che non è più Paolo Rossi del calcio scommesse, ma è il Paolo Rossi eroe del mondiale dell'82. E diciamo inizia a esserci in federazione una certa, tra virgolette, amnistia, e poi alla fine succede che le frontiere vengono aperte, perché fino ad allora le frontiere erano, tra virgolette, chiuse. E da quel momento in poi vuoi un'economia che è al massimo, vuoi un periodo, vuoi la vittoria del Mondiale 82, vuoi l'Italia che è un bel paese dove vivere, tutti i calciatori più importanti al mondo in questo decennio vogliono venire a giocare da noi. Uscire con un'esperienza nel campionato italiano negli anni 80 significa uscire con una laurea e un master di grande rilevanza. tutti i giocatori più forti dell'epoca sbarcano in Italia, vogliono venire in Italia, da Platini a Maradona, a Falcao, a Zico, centravanti della nazionale brasiliana, uno dei giocatori più forti di quel decennio, che firma per l'Udinese. Mi ricordo che ci furono anche dei problemi sul contratto di Zico e si rischiava di non poterlo tesserare, e la gente a Udine scese in piazza all'urlo o Zico o Austria. Arrivarono grandi giocatori come Socrates per la Fiorentina, Cerezo per la Roma, che poi andò alla Sampdoria, Junior per il Torino. Arrivò Karl-Heinz Rummenigge per l'Inter, a fine anni 80 il trio degli olandesi Rijkaard, Van Basten e Gullit, con l'avvio del Milan di Berlusconi. Insomma, avevamo il top del top del top. La Serie A aveva una copertura in Europa mondiale, e dall'altra parte d'Europa ci guardavano con molta molta molta invidia. Ed era il campionato in cui non è che c'era una squadra che dominava e le altre andavano correndo indietro. C'erano le famose sette sorelle, e si partiva con sette squadre praticamente quasi sempre alla pari. Ci fu l'anno incredibile della vittoria dello scudetto del Verona del 1985, l'anno della vittoria dello scudetto del Napoli dell'87, fino ad arrivare ai primi anni 90 con la vittoria della Sampdoria, che vince il suo primo e unico scudetto nel 1991. Insomma, c'era una competitività tale da portare un tutto esaurito negli stadi, degli introiti pazzeschi, e portare le squadre italiane a spendere un sacco di soldi. E una delle trattative che fa capire qual era la potenza del nostro calcio all'epoca era la trattativa inerente Ruud Gullit, che arrivò al Milan. Ruud Gullit fu visto da alcuni emissari del Milan in un PSV Barcellona. Lui stava firmando per il Barça, il prezzo d'acquisto era di 5 miliardi di lire più o meno. Berlusconi arrivò a Barcellona, diede al PSV 13 miliardi di lire e portò Gullit a casa, cioè spese il doppio, più del doppio, pur di assicurarsi il giocatore. In questo momento, diciamo, una cosa del genere forse la può fare il Paris Saint Germain, il Manchester City o il Real, cose che purtroppo oggi non succedono. C'era un flusso di denaro tale che ti potevi permettere la qualunque, anche la piccola media squadra si poteva permettere la qualunque. Poi ci furono anche casi allucinanti come i bidoni. Il più famoso è Danoello, praticamente fecero una truffa ai dirigenti della Pistoiese, che andarono in Brasile a visionare questo giocatore. Ci fu una partita che era praticamente una partita in cui si misero d'accordo le varie società per far vedere Danoello, che era un fenomeno. Questo giocatore inizia a fare numeri a raffica, gol a raffica. I dirigenti della Pistoiese chiudono subito l'accordo per 2 miliardi delle vecchie lire e portano questo giocatore, che si chiama Danoello, a Pistoia, nella Pistoiese. Però ci fu un equivoco, perché lui viene schierato come punta, mentre in realtà lui sarebbe un terzino, un ala. E quando gli dicono: ma tu sei una punta? Sì, sono una punta. Lui capiva appunto che in brasiliano significava ala, e fu uno dei flop pazzeschi. Però ci furono giocatori non male, come Juari all'Avellino, come Zawi ad Ascoli, il primo giocatore africano che giocò in Serie A. Insomma, ci furono giocatori anche non male, e comunque è un periodo incredibile, straordinario, indimenticabile, dove il calcio italiano dominava. E arrivammo alla fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90, con l'Italia che dominava anche in Europa. Io mi ricordo nell'89 due coppe europee su tre erano italiane, il Milan e il Napoli, che vinsero Coppa dei Campioni, all'epoca si chiamava ancora Coppa dei Campioni, e Coppa UEFA. E c'era anche c'era anche il 90 dove ci fu fatto il tris, Coppa dei Campioni Milan, Coppa UEFA Juve e Coppa delle Coppe Sampdoria. Cioè avevamo il dominio totale, come più o meno oggi hanno le squadre spagnole in Europa. Poi cosa è successo in queste annate? Il castello di carta alla fine poi crolla completamente. Sono rovinati, non hai abilità. Questa nazione brutta ti fa sentire asciutta e senza volontà. E gioca a fare Dio manipolando il tuo DNA. Così se vuoi cambiare invece resti uguale per l'eternità. Ma non c'è niente che sia diploma in fallimento e una laurea per reagire. Puoi fingere bene, ma so che hai fame. Tutto è efficacia, razionalità, niente può stupire. E non è certo il tempo quello che ti invecchia e ti fa morire. Ma tu rifiuti di ascoltare ogni segnale che ti può cambiare. Perché ti fa paura quello che succederà se poi ti senti uguale. Ma non c'è niente che sia che stai così male, il tuo diploma è un fallimento, è una laurea per reagire. Sai fingere bene, ma so che hai fame. Negli anni 90, mentre ancora le squadre di calcio, invece di investire su strutture e su degli stadi che erano stati fatti per i mondiali del 90, ma che alla fine rappresentavano cattedrali del deserto, io penso al San Nicola di Bari, e vedo il San Nicola di Bari oggi, veramente ci sono passato tante volte, veramente mi viene il magone a pensare come sia stato possibile costruire stadi del genere. Mentre in Inghilterra fanno stadi moderni, in iniziano a vendere i diritti televisivi in giro per il mondo, la Premier League inizia ad avere un appeal in tutto il mondo, tutti i giocatori iniziano a fare le valigie dall'Italia e andare verso l'Inghilterra, compresi i nostri calciatori. Non era successo prima, era successo sporadicamente, era successo poche volte che un calciatore, forse per andare in America, Chinaglia negli anni 70, ma negli anni 90 i giocatori italiani, anche quelli forti, quelli da nazionale, salutano la compagnia e se ne vanno in Inghilterra. Ricordo Zola, ricordo Di Matteo, ricordo Gianluca Vialli, ricordo Ravanelli che dopo aver vinto la Champions con la Juventus saluta la compagnia e se ne va a giocare al Middlesbrough. Insomma, il calcio inglese inizia a diventare un calcio ricercatissimo, d'élite, e alla gente interessa poco il nostro tatticismo, poco, diciamo, la cornice degli stadi italiani, e interessa più vedere gol a raffica, spettacolo a raffica, stadi pieni, perché comunque gli stadi inglesi dagli anni 90, alla metà degli anni 90 a oggi, in questi 24-25 anni, sono diventati dei veri e propri teatri di spettacolo e sono diventati posti dove portare la famiglia e divertirsi. Il tifo viene vissuto totalmente senza paure, senza rischio di violenze in gambe. Se ci sono delle violenze sugli spalti e anche in gambe e anche fuori, la polizia e la legge ti mettono a stretto cordone in modo tale che tu il campo non lo vedi fino a quando non passa in miglior vita lo stadio da calcio con i famosi DASPO. Mentre in Italia la violenza aumenta, gli spalti diventano veramente qualcosa dove ogni domenica succede qualcosa di tragico, a partire dalla morte del tifoso del Genoa del 95 spagnolo, per poi passare alla morte di poliziotti che erano in servizio allo stadio come Raciti, fino a pochi mesi fa a Inter-Napoli del Boxing Day, finalmente il primo Boxing Day italiano, e alla fine ci siamo ritrovati sempre con la violenza a farla da padrona, con le curve che comandano e che hanno rapporti un po' con tutto e tutti, tra virgolette, e il calcio italiano inizia a decadere in maniera importante. quali silenzi riecheggia. La rabbia delle tue certezze. La Premier League praticamente fa acquolina a tutti, non solo ai calciatori, anche agli allenatori, anche ai dirigenti, ma soprattutto a chi ha grande disponibilità economiche, ovvero i grandi imprenditori, i magnati, gli sceicchi, i presidenti dei vari fondi finanziari. Insomma, si pensa che investendo nel calcio inglese si possa avere una cassa di risonanza, un'immagine di rilevanza praticamente mondiale, visto che il calcio inglese e la Premier League era praticamente visibile in tutto il mondo a partire dalla metà degli anni 90 in poi. E questo ovviamente porta a entrare nei club inglesi per la prima volta proprietà straniere. Il primo è Abramovich, che compra il Chelsea. Il Chelsea, quando Abramovich subentra, è una squadra di media di metà classifica, dove non si vinceva un trofeo da quasi 50 anni, e con Abramovich praticamente si è vinto praticamente tutto l'era Abramovich. Il Chelsea diventa uno dei club dove giocano giocatori straordinari come Terry, Lampard, Drogba, che portano a vincere più di un trofeo, innumerevoli trofei alla squadra londinese. Poi iniziano ad arrivare gli americani, i Glazer per il Manchester United, che investono ingenti somme di denaro, e nel 2008 riescono a portare la Champions League dopo aver acquistato Cristiano Ronaldo allo Sporting Lisboa, fatto esplodere Cristiano Ronaldo, vinto Premier League su Premier League, aumentando il fatturato di 10, 20, 30, 40 volte rispetto ai nostri top club. E così a Liverpool arrivano gli americani, e anche a Manchester, dall'altra parte di Manchester, nel 2008, la parte povera di Manchester, perché fino al 2008 c'era il Manchester United il ricco, la parte ricca che vinceva, la parte più bella, e la parte più brutta, quella del City, che faceva fatica a stare tra la Serie B inglese e la Premier League perché non aveva grandi somme di denaro. E questo ha portato a una trasformazione totale, perché il Manchester City viene acquistato dallo sceicco Mansour e trasforma il Manchester City forse adesso nella prima squadra di Manchester, vincendo trofei importanti, al momento ancora mancando la Champions League, ma vincendo trofei importanti in Inghilterra e diventando, diciamo, principale competitor del Manchester United. E c'è un film che raccontava la povertà del City, ovvero Jimmy Grimble, Questa povertà sparisce perché Nazzurro fa uno stadio totalmente nuovo, compra milioni di giocatori, va a comprare il primo grande acquisto del City di Mansur e Robinho, che era all'epoca la punta di diamante del Real Madrid, quindi va a prendere un giocatore dal Real Madrid. E mi ricordo ci fu nel 2009 un'offerta di 120 milioni di euro per Kakà, penso i milanisti se lo ricordino. E, insomma, spendevano e espandevano. Invece le nostre squadre in Italia c'era praticamente la stagnazione, l'economia iniziava a fermarsi, si continuava a puntare sui cartellini dei giocatori e non sulle strutture, nonostante stati che erano stati riammodernati da poco ma erano stati fatiscenti. Non si è risolto il problema degli hooligans, degli ultras, gente che muore ancora allo stadio, poliziotti, ultras, tifosi normali, motorini lanciati dallo stadio. Insomma, c'è un fenomeno del calcio italiano che tiene alla lontana le famiglie, che non dà un'idea di calcio moderno come quello inglese, e infatti non è che il calcio italiano ha un appeal. Il calcio italiano inizia a decadere anno dopo anno. E poi arrivano scandali come quello di Calciopoli, che non giovano all'immagine del calcio italiano. Fatto sta che l'Inghilterra inizia a essere il top, la Liga a seguire, la Bundesliga a seguire. Noi che avevamo quattro squadre per qualificazione in Champions League, iniziamo a perdere dei posti in Champions League a scapito dei tedeschi, eccetera, eccetera. Oggi siamo ritornati ai quattro posti, ma all'epoca iniziamo a perdere posti. Non si vince più in Europa, perché in Europa una volta noi vincevamo l'impossibile, adesso non si vinceva più. Spagnolo e inglese si dividono le coppe europee e ultimamente è un dominio del Real Madrid. Però fatto sta che l'Italia diventa periferia che non interessa a nessuno. Molte volte i diritti televisivi della Serie A all'estero rimangono invenduti. Non c'è un'idea precisa su come rilanciare la Serie A. Per anni si è parlato di facciamo il modello tedesco, facciamo il modello inglese, facciamo il modello spagnolo, o guardiamo sempre l'erba del vicino che è sempre più verde, ma però alla fine quando proviamo a fare qualcosa non si riesce a fare nulla. In tutto questo, nel post-calciopoli c'è soltanto una squadra che è una mosca bianca, che è la Juventus, che a livello economico finanziario riesce a ottenere dei risultati fino ad arrivare a oggi a ingaggiare un giocatore come Cristiano Ronaldo. Ma il resto è soltanto grande fatica nel cercare di far quadrare i conti e nel cercare di non fallire sostanzialmente. E oggi la realtà è questa: se negli anni 80 c'erano sette squadre che potevano vincere il campionato, oggi c'è una squadra che è al di sopra di tutto e di tutti, e le altre squadre che arrangano cercando di fare il possibile per non mettersi, diciamo, in guai economici finanziari di un certo tipo. Arriveranno gli stranieri anche da noi in Italia. Berlusconi, con tutto con questo stato di cose, Berlusconi e Moratti saranno costretti, con profondi rossi di bilancio, a vendere Milan e Inter. La Roma la stessa cosa. De Laurentiis tiene botta col Napoli, però non può investire grosse somme. Insomma, siamo arrivati in un momento in cui il calcio italiano soccombe e boccheggia tranne una squadra. Cracking on your neck. They tell me you never give it up. Se negli anni Ottanta le sette sorelle si contendevano alla pari lo scudetto, o c'era la sorpresa del Verona campione d'Italia come nell'85, oggi in Italia le sette sorelle non esistono più. Esiste una squadra che ovviamente si è saputa amministrare, che a livello economico finanziario è al di sopra di tutti e di tutte, e vince stabilmente ormai da anni e anni e anni lo scudetto, rendendo poco interessante appunto questo campionato. In Inghilterra, dall'altra parte, ci sono sei squadre che partono alla pari. Se pensiamo alle due di Manchester, il Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham. E poi c'è tipo la sorpresa dell'Leicester, che nel 2016, contro tutte e ogni pronostico, vince la Premier League, e questo ha fatto accrescere il sistema calcio inglese ancora di più. Noi nel novembre del 2017 siamo stati eliminati dai mondiali, e mi ricordo che dopo quell'eliminazione tutti parlavano di cambiare il sistema, di rendere il nostro calcio simile al modello inglese, tedesco, francese. Ogni volta che si fallisce nel nostro calcio si parla di modelli altrui, ma il sistema non cambia. Il sistema decide di non voler apportare delle modifiche, di non voler provare a cambiare qualcosa. L'unica cosa che è cambiata, che è degna di nota, è l'investimento sul calcio femminile, che è una cosa molto positiva, ma è sempre poco per il nostro movimento. E quindi l'Italia si trova ancora a rincorrere gli altri campionati europei. Un Cristiano Ronaldo alla Juve non è servito per vincere una Champions League. Un Cristiano Ronaldo in Italia non è servito ad attrarre altri giocatori, perché gli altri club non possono spendere grosse somme di denaro. E in questo stato di cose io non so se la Serie A continuerà a stagnare per anni e anni e anni, oppure ci sarà una svolta che potrà portare ulteriori investitori stranieri a comprare squadre italiane e investire come hanno investito in Inghilterra. Al momento, nonostante qualche investitore straniero, li abbiamo al Milan, all'Inter, alla Roma, al Bologna, non abbiamo visto grosse somme di denaro investite sui club, anzi, tutt'altro. Per cui vedremo quello che succederà. Sicuramente non abbiamo una prospettiva, non sappiamo dove si vuole arrivare, perché la domanda che secondo me bisogna farsi quando si arriva a vedere una situazione che non ha via d'uscita è: dove vogliamo arrivare da qui a 5-10 anni? Programmare. Molti dicono sì, la programmazione, bla bla bla, ma la programmazione è importante, porsi degli obiettivi. La Serie A si è posta degli obiettivi da qua a 5, 10, 15 anni. Il calcio italiano si è posto degli obiettivi. Questo è quello che vorremmo sentirci dire da chi governa il gioco più amato degli italiani. Nel frattempo la Premier League è lì davanti a tutti, è lì che domina, e vedremo cosa succederà. Ovviamente dall'altra parte c'è anche un altro calcio, come quello spagnolo, di cui non abbiamo parlato, che comunque è alla pari quasi della Premier League, e sicuramente è il secondo campionato dopo la Premier più seguito. Una liga dove per anni i due giocatori più forti al mondo si sono sfidati ogni weekend nello stesso contesto. È un campionato che continua a fare dei numeri importanti, così come la Bundesliga, e noi arranchiamo. Questo era il primo podcast. Io vi ringrazio per avermi dato la possibilità di farvi compagnia. Se avete argomenti di cui discutere, di cui parlare, di cui pensare sia giusto parlare in questo podcast di Falso 9, noi siamo a vostra completa, totale disposizione. Alla prossima puntata, se ci sarà, e un abbraccio a tutti da Pietro. Ciao! To know the score,